strani di salite e discese. Ma tu sei rimasta bella così come il primo mese. Ricordi a Cinecittà, avrei fumato con te fino all'eternità. Guardando te, ma solo te, sì, quel viso che ora è parte di me. Ho tutto in testa, anche se a volte quello che si pensa non lo si manifesta. Sdraiati sul divano, non rivedremo più quel film. Prendevo il volo come un aeroplano. Tu non dicevi piano, io non dicevo piano. Ancora baby, vedi, gli anni non ci cambiano. Anche se a volte ci sembra tutto contro, il mondo contro, oh. Rimane tutto immacolato, stella, come il primo incontro. Ancora dormi sul mio letto, baby, baby. Ancora dormi sul mio letto, baby, baby. Ancora dormi sul mio letto, baby, baby. Ancora dormi sul mio letto, baby, baby. Quel giorno rimase anche lei a casa mia, pizza calda e sangria, ho ancora i segni di quella poesia, tranquilla, dolce ma senza frenesia. Entravo nella sua rosa e già stavamo in sintonia. Dream dream, era il cellulare, ma come mai non ritorni? Appa, sto in giro ma sempre nei dintorni. In realtà già si era trasferita, mia figlia è sparita. Ma che ci posso fare se la tua piccola mi riporta sempre da lei come una calamita? Troppo bella la vita, e sì, con la mia signorita, insieme a lei è sempre una nuova gita. Yeah. Ancora dormi.